Beh, partiamo dal motivo che l'ha spinto così a scrivere questo libro. In realtà si tratta di una raccolta di articoli, quindi il motivo che l'ha spinto a mettere insieme questi articoli in un libro. Ma il motivo è l'idea che poteva essere utile riproporlo dopo 3 anni, perché quelli sono tutti articoli, sono articoli che sono il 7, settimanalmente uno, eccetera. Un'idea così, perché non raccoglie, forse probabilmente mi è stata suggerita anche da qualcuno della casa editrice, eccetera. Sì, dalla casa editrice, che sarebbe stato opportuno, infatti. Poi è accaduto che tutti magari non l'avevano letto in un certo modo 3 anni fa, adesso lo possono leggere in maniera diversa, lo leggono in maniera diversa. E effettivamente, 3 anni fa la realtà era diversa, i rapporti erano diversi e nello specifico c'era questa cosa del rapporto con la sinistra radicale, con la rifondazione, Bertinotti, e quindi si svolgeva tutto un discorso, addirittura una ricerca. Ecco, quel percorso lì fece molto discutere a tempo, no? Fece molto. Sì, Mi sì. ricordo anche la presentazione, poi se non sbaglio, la candidatura di Bertinotti alle primarie presso la sua libreria Esattissimo, bravissimo, fece molto esattissimo. discutere. Era luglio, fine luglio del 5. Cosa. Quindi fu un rapporto tra la fine del 4 e fine del 7, 3 anni. Ecco, cosa si cercava di mettere a fuoco e cosa la sua C'è riflessione? questa parolona che è il superamento del comunismo. Bertinotti, come ben noto, era insieme di Rifondazione Comunista, che è quella parte del Partito Comunista che non volle cambiare nome, non volle seguire la svolta di Occhetto nel 91, eccetera, no? Perché dicendo vogliamo restare comunisti e perseguire questo ideale politico del comunismo, eccetera, eccetera. Dopo, quanti venne nel 91, con Garavini, eccetera, eccetera, Cossutta, dopo, quanto fanno, 10, nel 4 si manifestò palesemente a febbraio nel congresso di Venezia, che apprese la formula non violenza. Prendendo la formula non violenza, poi sviluppò tutta una cosa che bisognava rifondare il comunismo, rinnovare, cambiarlo, fare un superamento. Ecco, non c'era più di portare avanti la vecchia ideologia politica del comunismo, chiamiamolo russo o cineo tradizionale antico, ma fare un superamento. E Difatti dal suo punto poi di vista cosa sfociò, significava superamento del comunismo? per me significava non tanto prassi politica quanto ricerca teorica. E queste due grandi parole che ci sono sempre nella storia, da sempre, libertà e uguaglianza, che non sono mai andate insieme. Riuscire a fare l'uguaglianza, e con la libertà. L'uguaglianza fu fatta in Russia e magari anche in Cina, ma e anche a Cuba, in Angola no, in Etiopia forse nemmeno, ma diventò un'uguaglianza, sì, al 90% nella soddisfazione dei bisogni. Difatti questi regimi comunisti puntavano molto sugli ospedali, le scuole, eccetera. E lì tutti hanno sempre letto, anche se non sono andato a visitare né Cuba né Russia né Cina, ho sempre letto che lì, in quei regimi, queste cose funzionavano. Ho sentito ultimamente anche a Cuba, nonostante il livello molto basso di reddito e di benessere fisico, gli ospedali e le scuole funzionano, si dedicano molto a quella. E quindi quella è l'uguaglianza. Ma questo si lega alla frase soddisfazione dei bisogni. E su questo io sono perfettamente d'accordo. Le cure mediche, eccetera, sono uguali per Berlusconi e per il precario. Devono essere uguali. Lo Stato deve assicurare la stessa prestazione per la soddisfazione della salute fisica. Nella storia hanno ignorato completamente. Un'altra cosa è che nell'uomo non ci sono soltanto bisogni, ci sono quelli che io chiamo anche esigenze. E questo si lega a una certa costruzione di teoria, di lavoro, per cui io mi sono occupato di realtà umana e ho pensato e visto che l'uguaglianza non si trova tanto nel mettere, come dico comunemente, 1.300.000 giacchette grigie tutte uguali ai tutti cinesi. O livellare lo stipendio, cioè sì, quello è uno scandalo, che Montezemolo o cosa prenda 10 milioni l'anno. Però non bisogna fermarsi lì. L'uguaglianza bisogna scoprirla nella nascita. Ecco, riprendere le frasi che Marx lasciò così. Qua e là, nel senso che nessuno nasce re, per dire che ci si diventa casomai anche con la violenza, eccetera. Perché si nasce, io l'ho portata a questa cosa, che si nasce tutti uguali, portandola al paradosso proprio, che ai limiti, non si dovrebbe nemmeno considerare quello che dico io, fare una sparizione del sesso del neonato, perché quello che conta è che è un essere umano, punto e basta, 7 miliardi di esseri umani, la nascita è uguale per tutti. E poi c'è la differenziazione, ma man mano che si cresce, perché